ad alta voce. Manuela Mandracchia legge La parete di Marlene Haushofer. Traduzione di Ingrid Arbeck. Il 16 maggio trovai finalmente un luogo adatto per il campo delle patate. Lo avevo cercato per giorni insieme al lince. Non doveva trovarsi troppo lontano dalla capanna, né essere situato all'ombra, e soprattutto doveva avere terra fertile. Una condizione, quest'ultima, quasi impossibile da soddisfare. Da queste parti l'humus ricopre la pietra calcarea solo come uno strato sottile di epidermide. Avevo quasi rinunciato alla speranza di trovare della terra quando, in una piccola radura sul lato esposto al sole, trovai il posto adatto. Il terreno era quasi pianeggiante, asciutto e protetto tutto intorno dal bosco. E lì c'era veramente della terra. Una qualità tutta particolare, nera, leggera e disseminata di minuscoli pezzetti di carbone. In quel luogo doveva esserci stata una fornace di carbonella in un'epoca remota, perché ormai da tempo non esistevano più carbonai nella foresta. Ignoravo se la terra fuligginosa fosse adatta alle patate, ma decisi di piantarle comunque in quel luogo, sapendo che da nessun'altra parte avrei trovato uno strato di terra altrettanto profondo. Andai nella capanna a prendere il badile e il piccone e iniziai subito a vangare il terreno. Non fu tanto facile, perché vi crescevano anche dei cespugli e un'erba dalle radici lunghe, incredibilmente tenace. Questo lavoro durò 4 giorni e mi affaticò enormemente. Una volta terminato, mi riposai un giorno per poi procedere subito a mettere in terra le patate. Ricordavo vagamente che andavano tagliate, badando a lasciare almeno un occhio a ogni pezzo. Ricoprii di terra i solchi e tornai a casa. A questo punto non mi restava che attendere e sperare. Mi cosparsi le mani piegate col sevo di cervo. Ne avevo trovato un grosso pezzo nella capanna del guardacaccia. Appena ne fui in grado, iniziai a vangare il terreno accanto alla stalla per seminarvi i miei fagioli. C'era spazio solo per un piccolo orticello e non sapevo nemmeno se i fagioli avrebbero buttato. Potevano essere troppo vecchi oppure trattati chimicamente. Dovevo comunque fare un tentativo. Il tempo intanto era migliorato e i raggi di sole si alternavano agli scrosci di pioggia. Una volta ci fu perfino un leggero temporale e il bosco si trasformò in una conca verdeggiante piena di vapori. Dopo il temporale, a quel tempo mi sembrò importante annotarlo, scoppiò un caldo estivo e l'erba sul prato vicino al bosco crebbe alta e rigogliosa. Era un'erba stranamente dura, lunghissima e quasi spinosa, e suppongo non valesse molto come foraggio per gli animali, bella però sembrava gradirla. La mucca trascorreva tutti i giorni nel prato e mi sembrava che le sue forme si arrotondassero sempre più. Per sicurezza andai comunque a prendere il fieno rimasto nel fienile, in modo da essere rifornita anche nel caso il tempo peggiorasse improvvisamente. A giorni alterni tagliavo rami freschi per la lettiera. Volevo che la mia mucca prosperasse nell'ordine e nella pulizia. Badare a lei mi procurava molto lavoro. Ora avevo latte in abbondanza per me e per Lince, ma anche se Bella non avesse dato latte, sarei stata incapace di accudirla con minor cura. In poco tempo era diventata molto più di un capo di bestiame che tenevo per mio tornaconto. Può darsi che questo atteggiamento fosse poco ragionevole, ma non potevo e non volevo combatterlo. Ormai non avevo che gli animali e cominciai a considerarmi il capo della nostra singolare famiglia. Il giorno dopo il temporale, il 30 maggio, piovve ininterrottamente, una pioggia fertile, calda, che mi costrinse a rimanere in casa se non volevo bagnarmi da capo a piedi in pochi istanti. Verso sera calò un freddo sgradevole e fui costretta a riscaldare. Dopo aver sbrigato il lavoro nella stalla ed essermi lavata, infilai la vestaglia per leggere ancora un po' al chiarore del lume. Avevo scovato un almanacco agricolo dall'aspetto interessante. Conteneva una quantità di informazioni sull'orticoltura e l'allevamento del bestiame e io avevo urgente bisogno di accrescere le mie cognizioni. Lince s'era rintanato nella nicchia della stufa e sbuffava placidamente al caldo. Bevvi del tè amaro, ascoltando il monotono frusciare della pioggia. Tutto un tratto mi sembrò di udire gridare dei bambini. Sapevo che poteva trattarsi solo di un'illusione e tornai a occuparmi dell'almanacco. Ma Lince alzò la testa drizzando le orecchie. Ed ecco nuovamente un lieve pietoso lamento. Quella sera, nella mia casa, arrivò la gatta. Un fagotto grigio e fradicio, che gemeva acquattato davanti alla porta. Più tardi, una volta in casa, mi conficcò gli artigli nella vestaglia, terrorizzata, soffiando furibonda contro Lince che abbaiava. Sgridai il cane e lui se ne tornò di malavoglia e risentito nel suo buco. Poi posai la gatta sul tavolo. Continuava a soffiare in direzione di Lince. Uno sparuto gatto contadino, tigrato, grigio e nero, affamato e fradicio, tuttavia sempre pronto a difendersi con gli artigli e coi denti. Si placò solo quando ebbi confinato Lince nella camera da letto. Le diedi del latte caldo e un po' di carne. Divorava precipitosamente tutto quello che le mettevo sotto il naso, continuando a guardarsi intorno. Poi si lasciò accarezzare, saltò giù dal tavolo e dopo aver attraversato la stanza tutta impettita, scivolò sul mio letto. Lì si sdraiò e incominciò a lavarsi. Una volta asciutta, vidi che era una bella bestia, non grande, ma dal manto ben disegnato. La cosa più bella erano gli occhi, grandi e tondi, d'un giallo ambra. Forse apparteneva all'uomo accanto alla fontana e si era imbattuta nella parete tornando dalla caccia serale. Aveva girovagato per 4 settimane, probabilmente osservandomi già da tempo, prima di osare avvicinarsi alla casa. Il calore allettante e il bagliore del lume, forse anche l'odore del latte, avevano sconfitto la sua diffidenza. Lince guaiva nella sua prigione e così lo fece uscire, tenendolo per il collare. Accarezzai prima lui, poi la gatta, presentandogliela come nuova compagna di casa. Il cane si comportò con molto buon senso, sembrava aver capito. La gatta, invece, continuò per giorni a dimostrargli ostilità e diffidenza. Quasi certamente aveva fatto cattive esperienze e se Lince si avvicinava incuriosito, soffiava furibonda. Di notte dormiva nel mio letto, raggomitolata contro le mie gambe. Per me era piuttosto scomodo, ma col tempo ci feci l'abitudine. La mattina la gatta se ne andava e tornava solo all'imbrunire per mangiare, bere e andare a dormire nel mio letto. Continuò così per 5-6 giorni. Poi rimase con me e di lì in avanti si comportò come un vero gatto di casa. Lince non rinunciava ad avvicinarsi, era del resto un cane molto curioso e la gatta infine si abituò, smise di soffiare e si lasciò perfino annusare. Però non sembrava proprio a suo agio, era una creatura molto nervosa e diffidente. Scattava al primo rumore, quasi sempre in tensione, pronta alla fuga. Ci vollero diverse settimane prima che si calmasse e la smettesse di temere d'essere cacciata via a calci. Per qualche strano motivo, sembrò meno diffidente nei confronti di Lince di quanto lo fosse nei miei confronti. Evidentemente non temeva più brutte sorprese da parte del cane e prese a trattarlo come una donna lunatica tratta un marito goffo e maldestro. A volte gli soffiava, allungandogli una zampata, poi quando il cane si era ritirato, gli si avvicinava addormentandosi perfino al suo fianco. Con le persone doveva aver fatto esperienze terribili e sapendo come i gatti vengono maltrattati, specialmente in campagna, la cosa non mi stupì. La trattavo sempre con la stessa benevolenza, avvicinandomi solo lentamente e mai senza parlarle. E quando alla fine di giugno si alzò per la prima volta dal suo posto, attraversò il tavolo e mi si accostò per strofinarmi la testolina contro la fronte, lo considerai un grande successo. Il ghiaccio era rotto. Non che mi colmasse di tenerezza, e tuttavia sembrò disposto a dimenticare il male subito dagli esseri umani. Ancora oggi succede ogni tanto che indietreggi impaurita davanti a me o che scappi verso la porta se mi muovo troppo bruscamente. Mi addolora, ma chissà. Forse la gatta mi conosce meglio di quanto mi conosca io stessa e sospetta ciò che sarei in grado di fare. Mentre sto scrivendo, è sdraiata sul tavolo davanti a me. I suoi grandi occhi gialli guardano una macchia sul muro al di sopra della mia spalla. Mi sono già voltata 3 volte, ma non riesco a vedervi altro che il vecchio legno scuro. Talvolta fissa lungamente lo sguardo su di me, mai tanto a lungo quanto sul muro. Dopo qualche tempo diventa irrequieta e volta la testa, oppure strizza gli occhi. Anche Lince distoglieva lo sguardo se lo osservavo a lungo. Non credo che l'occhio umano eserciti un effetto ipnotico. Posso però immaginare che sia semplicemente troppo grande e luminoso per riuscire gradevole a un piccolo animale. Neanche a me farebbe piacere essere fissata da occhi grandi quanto un piattino. Da quando Lince è morto, la gatta si è affezionata di più a me. Forse si rende conto che dipendiamo interamente l'una dall'altra. In ogni modo era gelosa del cane, senza essere capace di manifestarlo. In realtà sono più io a dipendere da lei di quanto lei non dipenda da me. Io posso parlarle, accarezzarla, e attraverso i palmi delle mani il suo calore mi filtra nel corpo e mi conforta. Non credo che la gatta abbia bisogno di me quanto io di lei. Col tempo Lince sviluppò una certa simpatia per la gatta. La considerava un membro della famiglia o del branco e per proteggerla avrebbe attaccato qualsiasi aggressore. Eravamo dunque in 4. La mucca, la gatta, Lince e io. Lince era il prediletto. Presto non fu più solo il mio cane, ma il mio amico, l'unico amico in un mondo di fatiche e di solitudine. Capiva tutto ciò che gli dicevo. Sapeva se ero allegra o triste e alla sua maniera elementare cercava di consolarmi. La gatta era tutta diversa. Un animale coraggioso, resistente, che rispettavo con ammirazione, il quale tuttavia non rinunciava mai alla sua libertà. Non mi era affatto devota. Certo, Lince non aveva scelta, dipendeva da un padrone. Un cane senza padrone è la creatura più miserabile di questo mondo e perfino il più abietto degli uomini riesce a mandare in estasi il proprio cane. La gatta non tardò molto a manifestarmi certe esigenze. Voleva poter andare e tornare a qualsiasi ora, anche di notte, come meglio le piaceva. Potevo capire e poiché col tempo freddo ero costretta a tener chiusa la finestra, aprii un piccolo foro nel muro dietro all'armadio. Fu un lavoro faticoso, ma ne valse la pena, perché finalmente ebbi pace di notte. D'inverno l'armadio tratteneva lo spiffero d'aria fredda. D'estate, naturalmente, dormivo con la finestra aperta, ma la gatta si servì sempre del suo piccolo passaggio personale. Prese un ritmo di vita molto abitudinario. Dormiva di giorno, nella sera se ne andava per tornare solo la mattina dopo a scaldarsi vicino a me nel letto. Vedo la mia faccia, piccola e deformata nello specchio dei suoi grandi occhi. Ha preso l'abitudine di rispondermi quando le parlo. Non te ne andare questa notte, le dico. Nel bosco ci sono il gufo e la volpe. Con me stai al caldo e al sicuro. Brrr, brrr, meow, risponde. E forse vuole dire, si vedrà femmina umana. Io non vorrei impegnarmi. E poco dopo, ecco il momento in cui si alza, fa la gobba e stirandosi per 2 volte in tutta la lunghezza, salta giù dal tavolo per scivolare in fondo alla stanza e sparire silenziosa nel crepuscolo. E più tardi io dormirò il mio sonno leggero, un sonno in cui stormiscono gli abeti e gorgoglia la fontana. Verso l'alba, quando il piccolo corpo amico aderirà alle mie gambe, mi lascerò inghiottire da un sonno poco più profondo, mai troppo, perché devo stare sempre allerta. Qualcuno potrebbe insinuarsi dalla finestra, qualcuno dall'aspetto umano con una scure nascosta dietro la schiena. Il mio fucile carico è peso accanto al letto. Devo tendere l'orecchio per sentire se dei passi si avvicinano alla casa oppure alla stalla. Negli ultimi tempi ho spesso pensato di sgomberare la camera da letto per attrezzarvi una stalla per Bella. Molte cose depongono a sfavore, ma per me sarebbe molto rassicurante sentirla attraverso la porta e saperla vicina, al sicuro. Ovviamente dovrei aprire una porta verso l'esterno e smantellare il pavimento della camera per costruirvi uno scolo. Lo scolo potrei incanalarlo nel pozzo nero dietro la casa, sotto la capanna di legno. È solo il pensiero della porta che mi preoccupa. Con uno sforzo estremo riuscirei a demolire il muro per ricavare il vano, ma poi dovrei adattare con precisione la porta della stalla, e questo credo non mi sarebbe facile. Tutte le sere, a letto, rifletto su questa porta e mi metterei a piangere per essere tanto maldestra e incapace. Eppure, quando ci avrò pensato a lungo, mi metterò all'opera. Durante l'inverno Bella starà piacevolmente al caldo vicino alla cucina e sentirà la mia voce. Finché fa freddo e c'è la neve, non posso far altro che pensarci. La stalla di Bella mi creava nuovi problemi già allora, in giugno. Il pavimento di legno era impregnato della sua urina e incominciava a puzzare e a marcire. Non si poteva continuare così. Diversi due assi e scavai uno scolo nel quale l'urina potesse defluire all'esterno. La capanna era leggermente inclinata sul pendio che si estendeva fino al ruscello. Probabilmente nel corso degli anni il pavimento aveva ceduto leggermente, questo facilitava il mio lavoro. Tutto poteva defluire liberamente attraverso la porosità del suolo calcareo, venendo assorbito dal terreno. Durante l'estate, dietro la stalla c'era un leggero fetore. D'altronde io non andavo mai da quella parte. La stalla comunque adesso era asciutta e pulita. In quel punto il pendio è sempre stata una zona umida e inospitale, quasi inquietante, eternamente all'ombra e ricoperta di fitti abeti. Sul terriccio crescevano delle spugnole biancastre e c'era sempre un leggero odore di marcio. Poco importava che liquame filtrasse nel ruscello, l'acqua della fontana proveniva da una sorgente a monte della casa ed era chiara e freddissima, la migliore acqua che abbia mai bevuto. Mi accorgo di non aver mai segnato sull'agenda quando sparavo a un capo di selvaggina. Adesso ricordo pure che semplicemente mi ripugnava a notarlo, quasi non bastasse il fatto d'essere costretta a uccidere. Nemmeno ora ho voglia di scriverne. Mi basti accennare che dopo qualche colpo fallito mi fu abbastanza facile rifornirci di carne, senza consumare troppe cartucce. Sebbene io sia nata in città, mia madre invece veniva dalla campagna, esattamente dalla regione nella quale vivo ora. Lei e la madre di Luise erano sorelle e trascorrevano sempre le vacanze estive in campagna. A quel tempo non si usava ancora passarle sulla riviera. Anche se vivevo quell'estate in campagna come un gioco ininterrotto, molte cose udite allora mi sono rimaste impresse e oggi facilitano la vita che mi tocca fare. Perlomeno non sono del tutto inesperta. Già allora, da bambina, mi esercitavo al tirassegno con Luise. Ero addirittura la più dotata delle due, eppure fu lei a diventare un'appassionata cacciatrice. Durante la prima estate qui nel bosco, pescai anche parecchie trote. Ucciderle mi ripugnava meno. Non so perché. Per quanto riguarda i caprioli, la cosa mi appare particolarmente spregevole ancora oggi, quasi come un tradimento. Non riuscirò mai a farci l'abitudine. Le mie provviste diminuivano a vista d'occhio e fui costretta a limitarmi molto. Avvertivo soprattutto la mancanza di frutta, verdura, zucchero e pane. Mi aiutavo alla meglio con della lattuga selvatica, dei germogli d'abete e cucinando le ortiche al posto degli spinaci. Più avanti, mentre già aspettavo avidamente il raccolto delle patate, ci fu un periodo in cui mi presero le voglie, come una donna incinta. Le fantasie di cibo buono e abbondante mi perseguitavano perfino in sogno. Per fortuna, quello stato non durò troppo a lungo. Lo conoscevo già dal tempo della guerra, eppure avevo scordato quanto fosse terribile dipendere da un corpo insoddisfatto. Improvvisamente, appena ci furono le prime patate, le mie voglie irresistibili scomparvero. E cominciai a dimenticare il sapore della frutta fresca, della cioccolata e della granita di caffè. Né pensai più al profumo del pane fresco, anche se non mi riuscii mai di scordarlo del tutto. Ancora oggi mi capita di essere sopraffatta dalla voglia di pane. Il pane nero per me è diventato una delizia inimmaginabile. Se ripenso a quell'estate, mi appare piena di operosità e di tribolazioni. Riuscivo a malapena a eseguire lavori correnti. Non essendo avvezza ai lavori pesanti, mi sentivo continuamente spossata. Inoltre non avevo ancora introdotto una suddivisione efficiente, lavoravo troppo in fretta o troppo lentamente e tra molti insuccessi dovevo imparare qualsiasi lavoro da sola. Diventai magra e fiacca e perfino il lavoro nella stalla risultò eccessivamente faticoso. Non so come sia riuscita a sopravvivere a quel periodo, non lo so davvero. Forse ce la feci solo perché me l'ero messo in testa e perché dovevo provvedere a 3 bestie. Per la troppa fatica mi succedeva come al povero Ugo. Mi addormentavo appena sedevo sulla panca. A ciò si aggiungeva che, malgrado sognassi del buon cibo giorno e notte, appena volevo mangiare, non riuscivo quasi a mandar giù un boccone. Credo di essermi nutrita solo del latte di Bella. Era la sola cosa che non mi nauseasse. Mi trovavo troppo intrappolata in questo affanno per poter avere una visione chiara della mia situazione. Avendo deciso di tener duro, tenevo duro, ma avevo dimenticato per quale motivo ciò fosse importante. E vivevo ormai alla giornata. Non ricordo se a quel tempo tornavo spesso nella gola, probabilmente no. Ricordo solo d'essere scesa una volta fino al prato vicino al ruscello a fine giugno per controllare l'erba e di avere in quell'occasione gettato uno sguardo attraverso la parete. L'uomo accanto alla fontana era caduto. Adesso giaceva sulla schiena. Le ginocchia leggermente ripiegate, la mano inarcata sempre rivolta verso la faccia. Doveva essere stato travolto da un colpo di vento. Non aveva l'aspetto di un cadavere. Sembrava piuttosto un reperto di scavo, di uno scavo di Pompei. Mentre me ne stavo lì immobile a fissare quell'assurda cosa pietrificata, vidi sotto uno dei cespugli al di là della parete due uccelli tra l'erba alta. Anche loro dovevano essere stati scaraventati a terra dal vento. Erano graziosi a vedersi, simili a giocattoli dipinti. Avevano occhi scintillanti come pietre molate e le piume non s'erano scolorite. Non sembravano morti, ma piuttosto degli oggetti inerti da sempre, assolutamente inorganici. Eppure un tempo avevano vissuto e un alito caldo aveva mosso quelle piccole gole. L'ince, come sempre al mio seguito, distolse lo sguardo e mi diede un buffetto col muso. Voleva che proseguissi. Aveva più buon senso di me e così gli permisi di trascinarmi via da quegli oggetti pietrificati. In seguito, se dovevo scendere al prato, evitavo in genere di guardare attraverso la parete. Fu quasi completamente ricoperta dalla vegetazione già durante la prima estate. Alcuni dei miei ramoscelli di nocciolo avevano miracolosamente messo radici e in poco tempo, lungo il suo percorso, si era sviluppata una siepe verde. Sul prato vicino al ruscello crescevano garofani selvatici, aquilegie e un'erba alta e gialla. Il prato, al contrario della gola, aveva un aspetto allegro e ridente, ma poiché confinava con la parete, non sono mai riuscita ad amarlo. In realtà, a causa di Bella, ero legata allo chalet. Ciò malgrado, volevo tentare di esplorare un poco i dintorni. Ricordavo un sentiero che portava a una capanna di caccia situata più in alto e da lì scendeva sulla valle di fronte. Era là che volevo andare. Non potendo abbandonare la mucca troppo a lungo, decisi di incamminarmi già durante la notte. La luna era giusto piena e il tempo caldo e sereno. Munsi Bella solo a tarda sera. Lasciai del fieno e dell'acqua nella stalla e accanto alla stufa posai del latte per la gatta. Verso le 11, al primo chiarore di luna, mi avviai col lince. Presi con me qualcosa da mangiare, il cannocchiale e il fucile. Tutto questo in realtà mi appesantiva, ma non osavo girare disarmata. Lince era eccitato e felice di questa passeggiata notturna. Dapprima salii alla capanna di caccia che si trovava ancora nella riserva di Ugo. Il sentiero era in buono stato e la luna spandeva abbastanza chiarore. Non ho mai avuto paura di notte nel bosco, mentre in città ero sempre spaventata. Ignoro per quale motivo fosse così. Suppongo perché non mi passava mai per la mente di poter incontrare degli esseri umani anche nel bosco. La salita durò quasi 3 ore. Quando mi lasciai alle spalle l'ombra del bosco, la piccola radura con al centro la capanna giaceva davanti a me nella luce bianca. Decisi di ispezionare la capanna solo al ritorno e andai a sedere sulla panca esterna per riposare un attimo e bere un sorso dal termos. Qui l'aria era molto più fredda che nella valle infossata, ma forse questa impressione dipendeva solo dalla gelida luce bianca. Tutta la cupa oppressione degli ultimi giorni mi abbandonò. quasi mi scivolasse di dosso, lasciandomi sollevata e leggera. Semmai ebbi una sensazione di pace, fu in quella notte di giugno, nella radura illuminata dalla luna. Lince sedeva, il corpo addossato alle mie gambe, e guardava calmo e attento in direzione del bosco nero come l'inchiostro. Feci fatica ad alzarmi per proseguire il cammino. Attraversai il prato bagnato di rugiada e mi immersi nuovamente nelle tenebre del bosco. Ogni tanto nell'oscurità si udiva un fruscio. Innumerevoli piccoli animali dovevano trovarsi in cammino. Lince si teneva al mio fianco, silenzioso. Forse sperava ancora in una battuta di caccia. Il sentiero si addentrò per mezz'ora attraverso il bosco, obbligandomi a procedere lentamente perché la luce della luna illuminava solo debolmente il cammino. Si udì il grido di una civetta. Il suo richiamo non mi parve più inquietante di qualsiasi altro verso animale. Mi sorpresi a camminare con particolare cautela e senza far rumore. Non potevo fare diversamente, vi ero come costretta. Quando infine uscii dal bosco, iniziava ad albeggiare. La luce cinerea si confondeva col chiarore della luna calante. Il sentiero ora si snodava attraverso i pini nani e i rododendri, che nel crepuscolo sembravano zolle grigie piccole e grandi. Ogni tanto dalle mie scarpe si staccava una pietra che rotolava a valle, sobbalzando lungo il pendio. Raggiunto il punto più alto, sedetti su una piccola roccia e attesi. Manuela Mandracchia ha letto La parete di Marlene Haushofer, a cura di Fabiana Carobolante con Chiara Valerio, Ornella Bellucci e Filippo Travaglio. Sonorizzazione di Jacopo De Bertoldi. Tutte le puntate su RaiPlay Sound. Ad alta voce è un programma Rai Radio 3.